Dicevo, sei pronto? Dicevo, sì, ma riesci a dire una parola in italiano? Signora! Signora, per favore, mi fa vedere... Sigla! Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Hai visto che è già notte? Eh beh, è il 21 dicembre, il giorno più corto dell'anno. Però anche la notte più lunga, Drago. La notte più lunga. E quindi cosa deve succedere? Ma dai. E poi tra l'altro è anche la data della fine del mondo, tra un anno esatto, Drago. Infatti, oh che bello. Il conto alla rovescia comincia da qui, qualunque impegno abbiate preso, dal mutuo al contratto d'affitto, anche, non so, un appuntamento. Meno 3.460.746. Sappiate che non può andare meno oltre i 12 mesi, perché tra esattamente un anno il mondo sarà ridotto a un cumulo di macerie. Se avete un desiderio che non avete mai realizzato, ad esempio, avete solo un anno per farlo. Tipo, sognate da sempre di andare in giro per Firenze ad ammazzare senegalesi. Sappiate che avete solo un anno di tempo e comunque c'è qualcuno che è arrivato prima di voi. Cos'è lì? I documenti alla mano. Sono come il menu alla carte. Cos'è? I documenti alla main. Documenti alla main, guarda questo titolo, leggi a voce alta. Allora, leucemia, bambini a rischio se il padre fuma durante il concepimento. A parte che, detta così, sembra che il padre debba fumare durante l'atto sessuale. Certo. Anzi, durante il momento di massimo piacere, perché tecnicamente il concepimento... Sì, scendere nei dettagli, cioè, sappiamo. Ma tu te lo vedi uno che fuma durante l'atto sessuale? Cioè fa un tiro di sigaretta e... Magari cosa, la sigaretta del dopo... Hai capito? Ma sì, ma allora l'embrione che ne sa della sigaretta del dopo, non ho capito. Giusto. La vera cosa interessante di questa notizia è che magari il padre del bambino del film L'albero di Natale aveva fumato durante il concepimento. E quindi? Quindi niente, cioè è un piccolo contributo alla verità su una vicenda che va avanti da anni e che non aveva ancora trovato una soluzione, come il caso di Avetrano, no? Infatti Vespa ha fatto il plastico dell'albero di Natale del film L'albero di Natale, con i lupi, il bambino morto di leucemia con la vestaglietta. E ora, bambini, ricreazione! Chi te lo mar? S'accoccia tutte che le gare! Ioris! C'era! Ioris! Basta lontano! Ehi, Albert! Ehi, e che c'è? Che c'è? Se sapete cosa, ogni tanto c'ho la malinconia. La malinconia, il pomeriggio andiamo a casa, no? C'ho la nostalgia di... Di cosa? Del mare! Come il mare? Mi manca il mare! Ah già, perché tu sei meridionale. E in meridione c'è il mare. E mi dice tante cose, però sta il mare che è bello, è tutto tuo, puoi farlo tutto tuo. Vabbè, ho capito, ma... Allora, qui il mare non c'è. Però, fra poco... Fra poco qui c'è l'occasione, c'è la gita. C'è la gita in Liguria, che c'è il mare lì, Bello. A Spotorno. Ah, Spotorno, bello, vicino a Napoli. Ma no, vicino a Napoli, è in Liguria. È qui al nord, però c'è il mare. Non sarà il mare di Napoli. Va bene lo stesso, basta che andiamo al mare. Mica dipende da me. Cioè, io non posso andare. Perché non puoi andare? Perché dicono che sono obeso. E non accettano i bambini obesi perché poi dopo... Ma che c'entra? Anche a te ti sembra una cosa assurda o no? Scusi, che cosa c'entra che un obeso Ma appunto, una discriminazione. Però tu puoi andare. Tu sei magro. Ah, posso andare io? Certo, basta che vai in segreteria e ti iscrivi, no? Ah, si può andare, basta che sei magro. Devi andare in segreteria. Dici, voglio iscrivermi. Ah, 50 euro. E allora andiamo, fammi vedere dov'è. E là, c'è 50 euro? Ah, si paga. E per l'iscrizione, no? E ti danno da mangiare, ti portano avanti e indietro. No, non posso, io, Alberto, te lo sai che io sono povero. Vabbè, ma... Sì. Non posso, se perché si paga io non posso. Perché sei meridionale? E voi siete, no, e voi siete perché, perché sono povero. Allora, tu pensa a te che io che c'ho i soldi. Perché 50 euro... Ah, i soldi per andare. I 50 euro? Ce li ho qui, Ah, ce li hai? Ce l'ho qui nella tasca. Ah, non puoi andare perché sei perché obeso. Perché sono obeso, dicono loro. Forse ho capito. Capito? Effettivamente un po' rotondo sei. Rotondo, quello era questione di forme. Con obeso poi... Comunque, no, alla fine non posso andare, non farmici pensare. Sì, però possiamo... Cioè, io stavo pensando, tu sei un po' rotondo, faresti anche un po' fatica a venire a muoverti a fare... Vabbè, quello è un problema mio. Ho capito, però se tu c'hai i soldi e non puoi venire, io non c'ho i soldi e posso andare... Possiamo fare che io vado al posto tuo e E io pago al posto tuo. Sì, ma però facciamo come se fosse una società, siamo un'impresa, capito? Tu fai la bella vita, stai a casa, metti solo il capitale. E io invece vado là, metto la presenza. Esatto, la presenza. E recupero materiale. Sì, tu sei il braccio. Io ho il capitale del nord, tu sei il braccio del sud. Tu metti solo i soldi, io metto la presenza, vado io a mettere il braccio, a lavorare, a cercare, a guardare. Ma è una gita. È una gita. Una gita al mare, cosa vuoi lavorare? Facciamo i tuffi, possiamo fare anche un'altra cosa. Io ti posso fare pure delle belle fotografie. Tu ce l'hai il telefonino? Eh sì, c'ho smartphone. Ecco, tu mi puoi dare il tuo telefonino a me? E perché? Così io ti faccio le fotografie della gita. E poi ti telefono anche. Ma scusami, se io ti do il telefonino, che non ho ancora capito, per le foto. E poi come fai a chiamarti? No, tu mi chiami a me. Tu mi dai il telefonino e tu mi chiami quando vuoi. Perché noi siamo soci, dobbiamo essere sempre. E poi soci, ho capito, ma devo comprarmi un altro telefonino. Tu ti compri un altro telefonino, mi dai il telefonino a me, ci fai 10 euro di ricarica dentro. E come la ricarica? Così che io posso, quando voglio ti posso chiamare e dire socio. Ma che sto mandando il materiale, le foto Ma di che cosa? Della gita al mare? Che materiale? Di cosa stai parlando? Mica lo stiamo trafficando qua. E poi, che socio? Allora, qui non ho capito. Mettiamo che 50 euro te li do io e tu vai. E poi la storia della ricarica, il telefonino, devo comprare un altro telefonino. Ma poi, scusi, è importante che io ti faccio vedere dove sono stato. Ho capito, ma devo a mie spese. Ma tu, noi siamo una società. E come la società? Facciamo una cosa alla volta, Alberto. Comincia a darmi 50 euro e il telefonino. E come? Ce l'hai il telefonino appresso? Sì, e ce l'ho qui. Comincia 50 euro a destra e fammelo telefonino. Vedere, dobbiamo vedere se può servire, fammelo vedere. Beh, ormai è lo smartphone. Ma quanti megapixel se l'è questo? È 5. Ah, 5. E com'è? 5, cioè non è. Adesso ci sono quelli che vanno a 10, a 11, a 12. Vabbè, questo qui però è smartphone, touch bene. Vabbè, Alberto, va bene lo stesso. L'importante è che non ti lamenti se vengono una chiave con le foto. Vabbè, ma perché il telefonino è quello mio. Che è. Andiamo avanti. Le 50 euro. E come le 50 euro? Ce li hai le 50 euro? Ma perché tu vai. Io devo fare io quello che si muove dei soci. Io faccio il braccio e tu fai la cassa. No, la cassa era la mente, no? Il braccio e la mente. La mente. Master's slave, no? Tu fai quello che vuoi, l'importante è che metti la cassa. Allora, facciamo così. Quando lo fai tu il ruolo, vai, allora, siamo soci, allora, facciamo così. Allora, adesso ti do 50 euro. Ecco, bravo. Lo smartphone l'hai già messo via. Perfetto. Il telefonino già l'ho messo, lo spento, che se ci scarichiamo ci carica la batteria. La batteria è. Domani tu mi porti la ricarica dei soldi con il caricabatterie. Se no, se ci scarica, siamo andati in gita per niente. Ma chi è andato in chiesa? Sei andato tu in gita? Io devo andare, io sono quello che mette i bracci, tu metti solo la cassa. Ma i risultati sono per tutti e due. Hai capito, Alberto? Uno per tutti e tutti per uno. Io le foto te le lascio a te. E c'è le foto. Dai, Alberto, che io comincio a andare a iscrivermi. Tu prepara la ricarica da 10, 15, anche se vuoi da 20. Vai tu, fai quello che vuoi. E se riesci a recuperare dei soldi, perché è importante nell'impresa, ti porto pure il souvenir. E ho capito, il souvenir. E i soldi? E poi il souvenir? Il souvenir? Il scroporf. Dove ti devo andare? Che c'è il caspo? Torno! Aspetta, che c'è proprio? Qui si capisce che la mente sono io e tu sei il braccio, però, Non riesci neanche a parlare! Spotorno! Non è che è un altro idioma, no? Spotorno! Ma vado e poi torno! Non ti preoccupare, sto tornando! E come stai tornando? Sei appena andato via e con 50 euro e lo smartphone? Sono le 5 e come ogni giorno alle 5 Capodrago vi salutano e vi rimandano a domani alla stessa ora su Radio 24 con il cocktail e tutti gli ombrellini cosa? Ice cubes e spiagge, tutto quanto. Sì, 21 dicembre, spiagge d'inverno, il mare d'inverno è un film in bianco e nero.